quella con la fotografia, sotto la riga su cui si indica il luogo e la data d'emissione, accanto allo spazio riservato alla firma del sindaco di chi per lui, figura un rettangolino, sono 2,7 cm per 3,2, destinato ostensibilmente ad accogliere l'impronta del dito indice sinistro. In sé naturalmente il fatto non ha nulla di misterioso. Leggo gialli da abbastanza anni da sapere che da quando il cavaliere Alphonse Bertillon, capo nel 1890 dell'ufficio di identificazione della prefettura di Parigi, ha inventato e fatto adottare il sistema per classificarle e archiviarle su basi scientifiche, le impronte digitali sono strumento principe di identificazione, al punto che soltanto pochi efferatissimi criminali, come il celebre Fantomas, che usava indossare nel corso delle sue imprese degli speciali guanti in pelle di mano di cadavere, e sono riusciti a eludere la loro testimonianza. La carta d'identità a sua volta si propone il fine precipuo di permettere agli aventi interessi l'individuazione sicura del suo titolare, la descrizione che contiene statura, capelli, occhi, segni particolari, non è tale da identificare senza ambiguità il soggetto tra i suoi possibili simili, e dell'attendibilità dell'immagine fotografica occlusa è lecito, come sappiamo tutti per esperienza, dubitare. Onde l'opportunità di arricchire il documento con dati che non lasciano assolutamente adito al dubbio, come appunto l'impronta del dito indice sinistro. In quanto ai cittadini che di quel dito per avventura siano privi, è chiaro che il fatto stesso potrà valere come un prezioso segno particolare. Che qualche ingegnoso burocrate, in chissà quale fase della nostra storia, abbia pensato di corredare il modello della carta d'identità nazionale con quella casella, e quindi è assolutamente credibile. Il mistero nasce solo dalla considerazione che a me non risulta che quella casella sia stata mai riempita. In 40 anni da quando sono titolare della carta d'identità, ne devo aver cambiato 7-8 più o meno, nessuno mi ha mai chiesto di apporvi l'impronta del dito indice dell'uno o dell'altra mano. E non conosco nessuno a cui sia mai capitata questa esperienza. Tutto lascia pensare che dopo che qualche pezzo grosso del Ministero degli Interni aveva previsto di chiedere ai cittadini di piegarsi in massa alle esigenze del sistema Bertillon, qualche altro pezzo altrettanto grosso, se non di più, abbia deciso che era meglio non farne niente. Anche questa supposta resipiscenza non pone problemi di ordine teorico. Di ottimi motivi per non prendere le impronte digitali a tutti i cittadini in età superiore ai 15 anni ce ne sono parecchi. La procedura sarebbe indubbiamente un po' macchinosa, richiederebbe un minimo di competenza di cui i funzionari comunali non sono necessariamente forniti. L'obbligo di sottoporvici sì, potrebbe essere considerato una violazione abbastanza patente dei diritti civili del soggetto, e soprattutto la presenza di quel segno di identificazione sul documento d'identità sarebbe meno utile di quanto si possa pensare a prima vista. Perché l'impronta digitale possa essere utile per identificare il suo portatore, è necessario che chi compie l'identificazione possa confrontarla con quelle classificate e archiviate, il che è chiaramente nelle normali occasioni in cui capita di esibire il documento a un funzionario di pubblica sicurezza, alla frontiera, alla reception di un albergo o simili, non è così facile. Quando uno si trova in un luogo in cui il confronto è tecnologicamente possibile, di solito in un ufficio di polizia giudiziaria o giù di lì, le impronte tanto vale prendergliele per l'occasione tutte 10. L'idea di identificare i cittadini in quel modo si rivela meno brillante di quanto sembri a prima vista, si capisce che ci si abbia rinunciato senza difficoltà. Ma allora e il mistero si infittisce, allora perché quello spazio continua a essere inutilmente definito sui documenti che tutti ci portiamo in tasca? Perché nessuno ha mai pensato di abolire quella casella? Per pigrizia? Per indifferenza? Per pura e semplice inettitudine? Nel senso che nessuno ha mai pensato di comunicare all'ufficio competente che di quel riquadro non c'era più bisogno? Non lo so, ma è una domanda che non mi lascia tranquillo. Sì, lo so, so che lo Stato notoriamente non rinuncia mai a niente. Non ignoro che è riluttante ad abolire enti la cui utilità si è esaurita da decenni, che conserva nella legislazione delle norme applicabili soltanto in caso di viaggio a ritroso nel tempo, che codifica obblighi e diritti cui la vita contemporanea ha tolto ogni significato, che è affezionato alle tecnologie notoriamente più preterite che si possano trovare. Non mi sfugge che in questi giorni in cui ci sono le elezioni alle porte qualcuno sta sicuramente affannandosi per far installare per le vie dei tabelloni sui quali, da quando è stata inventata la televisione, nessuno ha un vero interesse ad affiggere alcunché, e a ordinare alle fabbriche specializzate interi stock di matite copiative. Ma tutte queste considerazioni non mi tranquillizzano. Nella presenza sulla mia carta d'identità di uno spazio destinato a ricevere l'impronta dell'indice della mano sinistra non riesco a non vedere una larvata minaccia. Come se qualcuno mi avvertisse che, pur avendo provvisoriamente rinunciato all'idea di costringermi a riempire quello spazio, la possibilità c'è sempre. Che se appena volesse potrebbe farlo. Che quello di lasciarmi sempre e comunque identificare è un mio obbligo preciso. E quello di potermi sempre e comunque identificare è una sua indubbia prerogativa. Perché se io non fossi sempre comunque identificabile con precisione assoluta, chissà quali malefatte potrei commettere nella certezza dell'impunità, e quindi posso essere grato a chi di dovere, se non ancora stabilito per tutti l'obbligo di farsi marchiare a fuoco in fronte. Forse esagero, ma certo ricordare alla gente che lo Stato deve sempre sapere tutto di tutti è una buona norma, almeno dal punto di vista di chi gestisce il potere, e in fondo allo scopo non sono necessarie le sofisticate apparecchiature tecnologiche di cui andava fiero il Grande Fratello, basta dimenticarsi di togliere dai documenti d'identità una precisazione che apparentemente non serve. Perché la precisazione forse non serve, ma la dimenticanza sicuramente sì.